sono in ascolto. Sono dei commenti proprio. Ci canale 10, c'è qualcuno in ascolto? E beh, briciola, si chiediamo. A briciola, briciola, briciola. Ha detto Billy, su che andiamo. Billy, su che andiamo, Billy, aiuto. E beh, Brigido. Uè, biondo. E com'è che sta lì? Sta bien? E beh, sta lì, va bene, così così. Mi ha detto mia moglie che ti ha visto, ca. E non vi siete manco passato in occhio a salutarmi. Oh, cazzo, stavo andando, non sai dove, la tari. Si stava portando una macchina a fare pulire i sedili in via San Francesco. E quindi dovevo andare a quell'ora subito a ritirarla. Vabbè, stavo scherzando, mi. No, non c'è problema, Manuel, già lo sa. Natalino. Chi è che mi chiama? L'uomo dell'India. Come? L'uomo dell'India. Non ti capisco. Come sto scendo è male. Ma chi sei? Adesso ti ho tirato fuori, non mi viene il nome. No, perché male sto facendo? È incomprensibile, Eri. Adesso già sei uscito più chiaro, da. C'è il microfono che fa qualche difetto. Non è il microfono, sicuramente sono stazionario, Può darsi, perché non sta uscendo come di solito, da. Sì, vabbè, appena acceso è. Senti, già è un mese spentoci, comunque buonasera. Buonasera, adesso sì che sei uscito bene, da. E allora ci devono riempire i condensatori. E a scariche stavi andando. Comunque c'è anche Emanuele qua. Avanti, Emanuele. No, ho capito. Chi era? Salvidio, non c'era Emanuele. Ah, ok, ciao Salvi. E allora già siamo vicini, dai. Siamo abbastanza vicini. Però non c'ho strumento collegato, non so come sono messo, perché è un bel po' di mesi che non accendo niente qua. Ma sempre la terrazza ce l'hai, Salvi? Sì, c'è sempre di lì, è attaccata di lì. Anda, beh. Mi prendi, Natali? Sì, ma c'è troppo cavo. Cavo grosso. Scende giù, può risale, e va l'antenna, non va bene, troppo lungo. Però non l'ho tagliato, perché se la devo mettere sull'antenna, sul tetto mi serve così. Ah, no, io lo stesso cavo, la versione 3 metri. E capo, la devo essere lungo. Entra qua dentro, scende giù e risale, ed è il doppio. Sono secondo rialzato, quindi, capito, sono 20 all'incirca, dove c'è 20, se mi ricordo male, erano 22 metri. E allora per quello pure le scelte sonare. Perché vedi la ferro di cavallo, capito? O è lineare o se no ho tagliato. Sì, ma non è attaccare, lineare, se c'è stazionare, gli bruci tutto. Chi è che ha parlato di lineare? Oh, Natalizio, non è un lineare, no. Sono Licio Casarini. Stai attento, perché se c'è stazionario succede macello. Se già ci sono stazionari mica mi possono permettere di attaccare niente, no? Prima avevo la certezza che non ci siano stazionari. E non sto bene, sono in casa, adesso accendo 5 minuti, infatti dai, aspetta, lo faccio scaldare, parlate voi, dai. Neanche io sto bene. Soprattutto raffreddato, raddossa, vaggio, mi vado in aria a Recci, cioè tutto da rottamare. Che cosa vuoi che sia? Ti porta lo spazzacarote? Ciao Natalino, non so chi c'è, sono entrato a gamba tesa. Io ti volevo raccontare, io sono stato dal 25 di mattina all'alba, non male, di più, malissimo. Forse non ero mai stato così male e non ho capito se quel disturbo particolare che ho io, se era un'influenza o un mix di tutte e due. C'avevo 40 di febbre. mi battevano i denti dai brividi, vomito, nel vomitato l'anima, capogiro, di tutto di più, sono stato 3 giorni a letto, un bel Natale di cacca. Che influenza è, Marco? C'è Saverio Emanuele. Buonasera, ciao. Ciao Saverio, ciao Emanuele, tutti gli ascoltoni. Guarda, qua è tornato apparentemente normale, per il momento è 1-1 dall'1 al 40. C'è uno sta uno sull'1 eccetera. Non ho capito questo fenomeno transitorio cos'è stato per l'antenna. Io rilancio Saverio, avanti Saverio. Saverio ha problemi con l'antenna, deve essere. Riprendi, lo senti a Marco. Vieni dallo stato, Marco, non ben sentito Marco lì. Sì, ho sentito, Saverio ha detto qualcosa di può scaldare, non so, devo farlo scaldare, una cosa del genere. Ciao Manuel, guarda se il segnale è normale, io sono con 3 watt, 3 e mezzo massimo. E qua ho avuto stazionari i giorni scorsi, oscillanti, oscillavano 1,5, 1,7, 2,5, fino a 3 hanno sfiorato, poi sono scese 2,5, 2,4, 2,3, sempre avanti e indietro erano. E non so cosa sia. Adesso è uno sta uno. E magari c'era qualche falso contatto. Il problema è che quello non sparisce, capito? Quello anzi si ripresenta peggio che mai. Vuol dire che l'antenna è un pochino arrivata a fine vita, però 9 anni. Anche tu c'hai la tosse, così è. No, tosse non ne ho. Questo è il piscicore che come stavo bevendo l'acqua. Anzi, tu guarda, a naso niente, gola niente, polmoni niente, via aerea zero totale. Capito? E nemmeno alla pancia. Ma guarda, sono stato veramente, ma forse una delle presunte influenze peggiori che abbia mai passato. E adesso dice che c'è il picco alto dell'influenza. Stavano dicendo che tra adesso e Capodanno, dice, è il picco più alto dell'influenza. C'è molta gente a letto, mi. Sì, guarda, uno schifo veramente. Pensa che eravamo a casa di mia zia qua giù, no? Per dormire lì 2 o 3 notti. Siamo andati a 24 sera, mangiato, tutto normale, tutto perfetto fino a... Poi di notte ho cominciato a avere un po' di freddo, ma c'è freddino qua però, non è come in casa nostra. E questo freddino aumentava il freddo, aumentavano i brividi. A un certo punto all'alba sono riuscito barcollando a arrivare in bagno e faccio questo rigetto, ma non finiva più, poi a uscirne l'anima, sembra che abbia vomitato l'anima. E evidentemente hai preso freddo, Marco, e ti è successo per quel motivo. Evidentemente hai preso freddo. Eppure salì, racconta che non stavo più uscendo in moto. Non stavo uscendo nemmeno in moto perché, appunto, per non prendere freddo, per evitare, capito? E invece è andata così, pazienza. E vuol dire che ti fai Capodanno bene. Chi è che si sente male? Marcolino dice che aveva la febbre a 40. Ma quello è tu. No, ha preso freddo sicuramente. Oppure doveva venire, cioè anche senza prendere freddo, basta che viene a contatto col virus. Ma guarda che io la febbre a 40 ne ho avuto solo quando avevo, mi pare, 2-3 anni, per una congestione, non avevo mai avuto la febbre così alta. Ho detto, chissà che sia la volta buona. Vabbè, ragazzi, vi saluto, se vado a guardare un po' di televisione, che domani mi devo alzare alle 5. Buona serata a tutti quanti. Ciao Natalina, ciao Marco, ce la riascoltiamo, dai, tutte le plus. Ciao Manuel, ciao, buon proseguimento di serata, le prossime, dai, avanti Marco. Ciao Manuel, buon corretti, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, magari in meglio occasioni. questa è parte mia, e quindi sono tutto imbacuccato, sto bevendo cose calde, poi il capogiro c'era ancora, cioè, ma ero di una spossatezza che non mi reggevo in piedi, proprio una spossatezza, le gambe molli, non riuscivo a stare in piedi, non per il capogiro, proprio per la, questa specie di spossatezza, stanchezza, eccetera. E quindi ho paura che sia proprio l'influenza. Eppure io cosa ti avevo appena detto i giorni prima? Che io sono refrattario all'influenza, raramente mi beccano. Però a quanto pare quando mi beccano bene. Infatti, io lo stesso sono tutto messo male, lo stesso, mi sono dato i piedi. Ma stamattina sono dovuto andare al CAF perché dovevo fare dei documenti e entrata nell'affare dell'INPS mio la tipa e dice che c'era da fare il reddito di 2 anni, meno male me l'ha fatto, gatta. Non so come ringraziarla quella lì, bravissima. Eia, vediamo se era entrato Saverio. Il mio collegato lo strumento, adesso mi sposto centro banda a vedere come sono le stazionali, e dai, a tra poco. Eia, e lui com'è, baramobile o da base? Tu Saverio, sei baramobile o base? No, sono QTH a casa. Ah, ok, no, io ho avuto da poco problemi d'antenna, che compaiono e scompaiono, così. Sono messo perché manco mi dite, ma se non vedo fastidio e controllo qua al volo. Fai, tanto qua, io sono entrato a salutare più che altro perché tanto adesso mi ricorico nella camera più calda dove c'è la stufa, qua è spenta. Fai quello che devi fare. Pago. Cavolo, deve essere un po' così, un po' ossidato. Allora, qua segnale 9 e questo è un po' secco, quindi potrebbe essere un 9.5 reale. Sì, vabbè, comunque sono lieve potenza. Allora, vediamo un po', aspetta un attimo, non ho qua sbagliato. Ora. Stazionari mi saranno, non sembra che abbia problemi particolari. A watt siamo messi, allora scala 1 kilowatt, scala 100 watt, 10 watt. Ora. Ora. Neanche 5 watt siamo, 4 watt e mezzo. Sì, già va bene, Sergio. Sono con la tosse, io credo. Febbre non ne ho avuto, ma sono tutto messo male, dai, sto stancato. Da quando ci hanno fatto questo vaccino mi sa che ci hanno rovinato. È stato veramente. Bravo, via. Microfono da tavolo si è scaricata la batteria, quindi più non c'ho voce, sono tutto rauco e c'è da rivedere l'impianto. Comunque adesso quando arriverà il tempo bello posso tranquillamente salire sul tetto e piazzare un'antenna come si deve, perché tanto oramai ho comprato, dunque siamo qua, siamo fissi qua. Saverio, che antenna stai utilizzando al momento? In questo una boomerang di circa quanto sarà lunga, 283 metri, una cosa del genere, con un radiale per regolare stazionaria. Eia, quella full size che sto usando la 5 ottavi Energy, c'era 9 anni e mezzo, però dopo 9 anni e mezzo adesso io non so se sia il cavo se sia altro, se sia il bocchettone UPL, mezzo andato, io ho stagnato tutto, adesso vediamo, e se no pazienza, se no c'ho anche la Venom da parte nuova in scatolata, però mezz'onda tutta strana, mezz'onda con i radiali quelli piccoli lì. Io ho la Mantova che avevo tanti anni fa, di mamma, che l'ho tutta ripristinata, e l'avevo, ero andato a collaudarla in campagna, l'ho provata in campagna. campagna, ho messo 2 metri di palo in terra, sono levata 2 metri da terra e ho visto che arrivavo a Carbonarsi da Marchetto, dentro un terreno, un fosso, arrivavo 9 abbondanti a Carbonarsi. Dunque vuol dire che mi è riuscita, dai, ce l'ha piatto qua, già dovrebbe suonare bene la campagna. Sì, la manzova è fatta anche bella massiccia, robusta, questa invece è fatta economica, cioè sembrano fatte proprio per rompersi, usa e getta, anzi avrei detto dura, se dura 2 o 3 anni si ripaga, invece 9 anni e mezzo, vediamo se raggiungo i 10 anni e è ripagata, dai. Saverio, hai un falso contatto microfonico, adesso non sei uscito nulla nel passaggio, a momenti ti manca la modulazione, di botto proprio. E sarà la batteria messa male, stavo facendo la scarica, come è entrato. Sì, avete parlato in 2, però Natalia la batteria se scarica, se tende a abbassarsi la modulazione, magari sempre più, ma lì proprio gli manca di botto, e qua non te lo posso riprodurre, perché qua attacca direttamente la capsula di condensatore, capito? No, ma io qua, cioè, ripeto, c'ho un microfono originale della Parigi, se manca vuol dire che... È mancata 2 volte la modulazione, Salvi, evidentemente non schiaccia bene la portante quel microfono. E magari c'ha un po' di ossido, lo smitter che si muove, ora, vedi, oi, c'è qualche problema. Sì, qualche problema c'ha quel microfono. Ne hai il disossidante secco, quello Dreigot, tipo CRC, non è CRC? Cioè, lo stai per contatti, ci ho capito, ma adesso non ce l'ho qua a portata di mano, ce l'ho in laboratorio. Ma avrei risolto il problema se trovavo una batteria 9 al volo, ma non ne ho qua batteria 9, per metterla nel microfono da tavolo, capito? E quello già spinge il microfono. Quello che è costante. Sì, qua non si muove la stazionaria, ma che strano, a meno che Natini non abbiano appoggiato materiale retinettali, qualcosa di provvisorio sul tetto, che magari ondeggiava col vento e faceva interferenza all'antenna, ma non lo so. E poi quel lineare retto era uscito saturo, non vorrei che le stazionarie alte l'avessero anche danneggiato, quello che c'ha 4 finali, basta che parte un finale ed è compromesso tutto il linearetto. Lo so, è a MOSFET quello. Ehi, adesso vedi un po' prima, tanto non ce n'è bisogno di quel linearetto in città. Quando fa un po' di tempo bello che smettono di lavorare lì, guardi bene la situazione, lo riattacchi e poi vedi un po' come funziona. Ma che c'è dietro che la tua voce? Si è capito, etro che la tua voce, ho già capito cosa vuol dire Saverio, che si tiene più la voluta di tra la TV, la gente che parla, che non la voce di Natalino, solita storia. Eppure Natalino, la soluzione la sai, microfono normale, palmare. Mi ricordo all'epoca, 40 anni fa, esistevano i microfoni da tavolo per baracchini e non solo, non preamplificati, cioè erano normali microfoni dinamici da tavolo, te li ricordi? Mi faceva anche la CTE. Lo so, adesso il microfono a tavolo, il microfono normale non so dove l'ho messo. Vabbè, bene o male già sei capibile, meno male, più male che bene già sei capibile. Fatto in attesa adesso chiudo. 7:15, tu stai cucinando anche, io ti ho detto guarda il caldo perché sennò qua rischio brutto. Che bel Natale, guarda. Ma pensa che eravamo in trasferta anche, cioè ho avuto in un certo senso, non anche se non era colpa mia, ma ho mezzo rovinato il Natale e il Santo Stefano, che ci avevamo anche festeggiato a Santo Stefano. E io ero nella tua stanza, Burendi, bevendo litri d'acqua, solo acqua riuscivo a bere. Figurati, ma perché non te lo fai una prolunga del cavo e te lo metti nell'altra stanza? Così almeno non soffri il freddo, Marco. No, no, ti dirò di più, il cavo arriva perfettamente nella mia stanza. Io qua l'ho avvolto dietro il divano, molto molto largo, senza fare spirale, molto molto largo, però se io lo svolgo tutto arriva comodamente al mio comodino. Però sai cos'è? Mamma c'ha il deambulatore. Cioè, mi dovevi fare la prolunga, passarlo poi in alto, perché lei passa con l'ambulatore, non deve trovare ostacoli, capito? Ho capito. Se no qua cominciamo, lo spezzone, cioè già qua c'è il barilotto fuori, no? Se aggiungiamo un altro giunto, addio. Sì, vabbè. E comunque qua tutto, io ho acceso anche prima, alle 5:30, un mortuorio. Vabbè, tutti saranno ancora sotto il tavolo dalle feste, dalla beuzia. Sì, infatti, non c'era da fare affidamento. Anch'io ero alle 5, ero in ascolto, là, però non è entrato nessuno. Vabbè, io non ho chiamato, io sono acceso, anche per vedere se c'era ancora l'antenna, no? C'era collegata, capisci a me? Signoria, ma sono ciomi. Sì, infatti accendiamo la TV e poi buonanotte. No, perché stasera stavano tutto tagliando di mora, proprio qua dietro mi dovevo passare il cavo. Io ero già con le mani in testa, ho detto, mamma mia, non posso nemmeno uscire a controllare, se non mi becco un malanno di nuovo. E infatti stai riservato. Certo, se sei in quelle condizioni è meglio che stai tranquillo. No, ti dirò, adesso a parte la stanchezza e un po' di capogiro quando mi muovo, non ho più quei sintomi, c'è scomparsa la febbre, scomparsa i problemi di stomaco, solo spossatezza, perché grazie a Dio è stata un po' per me una tribolazione, poi temperature così alte io mai. Guarda, io già con 37,5 sono KO. La temperatura la sento subito, mi crepa subito, figurati con 40. Sì, molta gente ho sentito che sono a letto con la febbre alta. È un virus malefico questo. Guarda, anche Ivan mi ha chiamato oggi, il collega suo lo stesso, febbrone a 40, lei l'influenza che sta girando. Vabbè, prendiamola con filosofia, tanto non possiamo fare, bisogna aspettare il decorso e basta, e cercare di non pigliare però la ricaduta, se no... Infatti è per quello che ti ho detto di starti riservato. Io stamattina, perché l'ho costretto, sono uscito, se no non sarei uscito neanche. Sono dovuto uscire perché l'ho costretto ad andare lì, perché dovevo fare questi documenti, e poi oltre a fare quelli mi ha fatto due dichiarazioni di redditi che ero indietro. Cavolo, è entrata nel coso dell'INPS e stavano chiedendo 2 anni addirittura. E io non ne sapevo nulla. Guarda, anche noi siamo dei pasticcioni, facevano dei casini che non ti dico. Quindi oltre che Cuocoma neanche l'occasione fiscale, così è. Mi mancava solo quello. Saverio, riprendi. Saverio, non rispondo, vediamo se rientra, così almeno saluti e poi chiudo. Qua è stabile, è sempre stabile. Cosa strana, ma no, vabbè, i fenomeni elettromagnetici no, tempeste non c'entrano niente, non stavo per dire una cavolata. Sì, putti, cane. Già. Speriamo che non sia nulla. Magari o hanno appoggiato qualcosa, o hanno tuzzinato il cavo su, e questi operai bisogna prenderli e ucciderli. Guarda, io ho potuto vedere solo dalla strada, dovevo andare anche un po' lontano, in alto, perché sennò non lo vedi. Mi sono messo gli occhiali e l'antenna era intera, dritta, i radiali c'erano tutti perché c'era il cielo che permetteva di vederli, L'antenna a occhio era in ordine, però lo sappiamo che non vuol dire niente. Sì, infatti Marco, chissà che non sia nulla. Adesso fra un po' mangio io, perché mi devo prendere le pastiglie, capito? La ghidura, così almeno, se no più tardi mangio e più tardi mi tocca farmi l'insulina per la notte, quella lenta, perché faccio solo quella. Sì, ehi, allora tanto è quella, ehi Anazzarì. Va bene, io chiudo, me ne provo al calluccio e basta. Saverio, ciao, se sei rientrato, se sei all'ascolto. Ciao Natalino, ciao anche gli ascoltatori, ok, buona serata a tutti. Vi vorrei dire buon Natale, ma siamo tutti inficiati, mi sembra di prendervi in giro. E ormai Natale è passato. No. Capito? Ormai, come no? Tempo. Il 25 Natale era, cosa mi rompi le scatole? Io gli ho mandato il 26 e il 27. È perché tu sei pazzolata. No, ma vabbè, gli auguri di Natale poi, se a volte li facciamo anche in ritardo, perché uno dice aspetta, vediamo se li fa l'altra persona, no? Amicizia e roba del genere. E l'altro pensa lo stesso, aspetta, vediamo se Marco fa gli auguri, se si tiene a fare gli auguri. Quindi lo penso io, lo pensa lui, alla fine nessuno le fa e ci facciamo giorni e giorni dopo. E qua. Adesso ne ho una in più da salutare, cavolo, quella che è del CAF, no? Adesso mi tocca fargli gli auguri a Capodanno, ma se li merita, è bravissima quella signora. Mandale un certo regalo. Mi sa che le mando un mazzo di fiori, gata, perché se li merita, guarda. Comunque sono sempre qua, è da fare. Saverio, io stavo chiudendo, credo che Natalino vada a mangiare adesso. Dai, rinnovo i saluti a tutti, una buona serata, un buon proseguimento di serata, e ciao a tutti, cuoretti per me, vai Saverio. Buon cuoretti e buona carica, buon tutto, ci sentiamo alla prossima, ok va bene, salutoni Marco, buon cuoretti e buon proseguimento di serata, mi ha fatto piacere ascoltarvi a te Saverio, io pure me ne passo in QRT, cosa carica batterie. Ci sentiamo alle prossime, dai. Salutoni a tutti.